Chiedo asilo presenta Speciale Unità d'Italia. La piccola vedetta lombarda. Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattinata del mese di giugno, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Cosa fai, tenente capo? Come cosa faccio? I cavalli sono nervosi, forse sentono qualcosa, no? Forse sentono la fame, sono due giorni che non mangiano. Ma che fame? Sono cavalli da guerra questi qua, non sentono la fame, non sentono la sete, non sentono nemmeno la frusta. Beati loro. Hai sentito? Cosa? Quell'ululato. Ah no, il mio stomaco che si lamenta. E cosa fa, ulula? Sì, c'ho una fame da lupi. Che strozza! Qui tra l'altro siamo vicini a Voghera, fanno una gallina ripiena eccezionale. Io quasi quasi chiamo Slow Food, magari mi consigliano una trattoria, qualcosa, aspetta. This is Slow Food. Please hold the line. Ma cosa fai? Sono in attesa, qui c'è la coda per la gallina ripiena, Slow Food. Sergente Drago, siamo in guerra, maledizione, la smetta di pensare a mangiare! Calmati, di colpo mi dai del lei. Per forza, no? Io sono ufficiale, tu sei sotto ufficiale, tenente, perché, sergente. Infatti, ma perché poi tu devi fare il tenente e io il sergente? Perché sono più alto. Ah, come i bambini. Appunto, no? Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente, e tutti guardavano lontano, davanti a sé, preparati a vedere da un momento all'altro biancheggiare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici. Dal diario del sergente Drago. I nemici sono gli austriaci, cara Teresina, e io non li ho mai visti. So solo che anche loro, come noi, stanno facendo la guerra e che la guerra è brutta. Si dorme al freddo, ti sparano addosso, ma soprattutto si mangia malissimo. Altro che il vitel tonné che fai tu e le tue raviole al plin, la tua bagna cauda, il tuo brasato al barolo. Teresina, quando torno a casa la prima cosa che facciamo è una bella mangiata, eh? Basta con queste melensaggini, sergente Drago! E poi pensi sempre a mangiare, ma cos'è? Sì, continuo a avere la fame da lupi. Arrivarono così a una casetta rustica, circondata da frassini, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo d'una dozzina d'anni. Scortecciava un piccolo ramo con un coltello per farsene un bastoncino. E qua c'è così poco da fare che l'unico divertimento è scortecciare i rami. E devo anche stare attento mentre lo faccio. Sì, perché c'è tutta una tecnica, per scortecciare i rami. Tipo che non devo mai far correre la lama verso di me, come sto facendo adesso. Perché sennò mi stacco il dito della mano sinistra. Aia, ma porca puttana! Ma no, il parolacciometro! Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Il berretto lo tengo su. Era un bel ragazzo, dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti. È piano, Coi capelli biondi e lunghi. Era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. Mostrava. Ehi, bambino! Cosa fai lì col petto nudo, tutto... Beh, siamo a giugno, fa caldo, Sì, vabbè, ma dov'è la tua famiglia? Io non ho famiglia. Ma come sarebbe a dire? Che sono un orfanello. Io sono un orfanello da parte di madre, invece mio padre è vivo mai stronzo, mi spacca di botte, di giorno, di notte, gioca sui cani, è sempre più sbronzo, si è messo con una bruna, la brona tettona, che di me se ne frega, è soltanto una strega. Basta, sono stufo, meglio stare da solo, senza casa né famiglia, posso prendere il volo, volo, volo. Io sono un orfanello, tipico orfanello, senza scarpe, senza madre, un orfanello. Son così triste, commuovo anche se. L'ufficiale stette un poco pensando. Poi saltò giù da cavallo e, lasciati i soldati lì rivolti verso il nemico, entrò nella casa e salì sul tetto. La casa era bassa. Dal tetto non si vedeva che un piccolo tratto di campagna. Bisogna salire sugli alberi, disse l'ufficiale, che discese. Proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile che dondolava la vetta nell'azzurro. L'ufficiale rimase un po' sopra pensiero, guardando ora l'albero, ora i soldati. Ora l'albero, ora i soldati. Ora l'albero, ora i soldati. Tenente Capa, non mi dire che anche tu hai incontrato la sindrome de... L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Te l'avevo detto, qui si muore di fame. È morto. Poi tutto a un tratto domandò al ragazzo: hai buona vista tu, Monello? Io? Io vedo un passerotto lontano un miglio, rispose il ragazzo. Sei sicuro? Perché qui con il piacere solitario dello scortecciare i rami, sai, si perde la vista. Ma cosa stai dicendo? Ma in che senso? Ma no, ma lascia stare. Piuttosto, sei buono a salire in cima a quest'albero? In cima a quell'albero? Sicuro? E che cosa vuoi in cambio? Ma niente. Se fosse per gli austriaci, adesso un patto. Bravo. Ma per i nostri... Uè, io sono lombardo, Bene, allora vai su, dai. Un momento che mi levi le scarpe. Si levò le scarpe, si strinse la cinghia dei calzoni, buttò nell'erba il berretto. No, ho detto che il berretto non me lo tolgo. Però, occhio, esclamò l'ufficiale facendo l'atto di trattenerlo, come preso da un timore improvviso. Il ragazzo si voltò a guardarlo, quei suoi begli occhi celesti in atto interrogativo. Cosa c'è? Niente, niente, vai su, disse l'ufficiale. Il ragazzo andò su come un gatto. In pochi momenti il ragazzo fu sulla cima dell'albero, avviticchiato al fusto, con le gambe tra le foglie, ma col busto scoperto, e il sole che gli batteva sul capo biondo, che pareva d'oro. L'ufficiale lo vedeva appena, tanto era piccino, lassù. Ragazzo! Già che sei lì! Non è che ci sono dei nidi d'uccello con qualche ovetto pronto per essere mangiato? Ma smettila, ma sergente, ma sempre a mangiare, pensa. Io continuo ad avere la fame da lupi. Ragazzo, guarda dritto e lontano. Sì, ma dritto dove? Dritto? No, tenente, questo non capisce niente. Come sarebbe? Abbiamo detto dritto, vabbè. Guarda a destra, guarda a destra. Ho capito, a destra. A destra. A destra quale? A destra. La mia destra o la vostra destra? Lasciamolo sull'albero, andiamo in trattoria, tenente. Ma che trattoria? Ma adesso arrivano gli austriaci. Adesso arrivano gli austriaci, sparano al bambino che cade e muore. Cosa? No, a me quel finale lì di quel di Amicis. Non mi piace mica. Vabbè, ma ti devi rassegnare così, sono pagine cariche di gloria. Non si possono cambiare così all'uopo, mi spiace. Non si può cambiare la storia. Il ragazzo sale, tre colpi di fucile, boom, cade morto. Vabbè, ma io non voglio morire su quest'albero. Vabbè, ma la storia è così. Allora io cambio il finale di mia iniziativa. Vabbè, allora cambiamo il finale. Cosa fai? Scendi giù e andiamo a mangiare insieme in trattoria. Adesso non scendo. Come non scendi? Ma io me ne sto qua, ma scusate. Io qui sopra c'ho il mio ruolo, c'ho la mia dignità. In fondo, alla fine io sono la piccola vedetta lombarda, Guardo lì, guardo là, vedo fino alla città, sono la piccola vedetta lombarda. Se il nemico verrà, certo non mi può sfuggire. Sì, ma bada ben. Io la vista ce l'ho, il coraggio più di un po', sono la piccola vedetta. Vieni giù. Io no, non scendo, resto appeso qua su. Scendi, scemo, scendi. Non ho paura di volare. Che poi ti fai male. Da qui il mondo è un po' più piccolo. Per forza è più lontano. Sergente, in fondo cosa? Quasi quasi cosa? In fondo quasi quasi. Conviene anche a noi due, sergente. Ci arrampichiamo sull'albero e aspettiamo che la guerra finisca. Disertiamo in pratica. Disertiamo, allora vediamo se ci sono le uova di uccello. Allora sì, Togli le scarpe. Voi due, piano, Uno alla volta che si sfonda il ramo. Kappa, Drago, ma che voce abbiamo? E si vede che a salire sull'albero si torna bambini. È così bello stare.